Con l'artista Consuelo Mura per parlare dell'evento performance L'oro di Psiche che sarà a Roma al Macro venerdì 11 gennaio 2019. Consuelo, ben trovata. Grazie mille Federico, buongiorno a tutti. Ci presenti questo lavoro? Sì, dunque sarà appunto l'11 gennaio alle 6 al Macro Asilo e sarà una performance in cui io applicherò la foglia d'oro per creare una psiche, la mia psiche. Io sto lavorando a questo progetto ormai da molti anni, diciamo quasi 3 ormai. Quest'estate a Stromboli, alla festa del Centro Ecologico, ho avuto modo di ascoltare Vittorio Continelli raccontare il suo mito, Prometeo. Stava raccontando Prometeo sulla spiaggia sotto lo Stromboli, e da lì è un po' nata l'idea di coinvolgerlo in questo progetto, nel quale appunto io lavorerò sulla tela con Psiche e la foglia oro. E lui invece racconterà la favola di Amore e Psiche. Trovo che questa favola sia ancora tanto attuale, come spesso accade ai miti. In fondo racconta di una donna costretta a sposarsi con un dio, e che poi però si ritrova in questa dimora meravigliosa, nella quale però è sola, terribilmente sola, anche le sue ancelle sono incorporee. Ha sposato questo dio che però non può vedere, può solo sentire e toccare, e ad un certo punto viene proprio mossa da una curiosità irrefrenabile, una voglia di conoscenza, comunque io vedo nella sua accezione più positiva, e alla fine decide di, nonostante lui la minacci e le dica guarda, non mi puoi vedere perché se mi vedrà io non andrò. Lei decide di illuminarlo con la sua lampada e ad olio lo brucia e poi da lì quindi lo vede chi è. Nel frattempo poi chiaramente si innamora di lui, è amore, e però lui fugge via, e da quel momento inizia questo percorso di psiche che la porta, a mio avviso, ad una vera maturità. Un rapporto intanto consapevole, poi, perché supererà una serie di prove difficilissime che la rendono una donna prima e una dea alla fine, quando poi finalmente si ricongiunge con amore. E quindi, insomma, da prima, questo, per parlare poi invece della funzione dell'oro nel mio lavoro, da prima. L'oro rappresenta, lei stessa usa queste parole, questa dimora rappresenta questa sua prigione dorata. E quindi lei, così, con questa voglia di conoscere il suo amore, gratta via quest'oro, sino a far venire alla luce la verità. E poi, successivamente, è loro stesso invece a ripararla, ad accrescerne il valore. Ci sono alcune tele in cui ho, diciamo, finto la rottura di psiche. Io rappresento psiche con le statue, dipingo le statue di artisti come Tenerani, Canova. E ho finto la rottura di questa statua per poi ripararla con la foglia oro, fingendo un kintsugi. Ecco, in questo devo dire che la festa del Teatro Ecologico è stata bellissima, perché è stata un'opportunità di confronto tra appunto, artisti diversi, lontani anche, attori, scrittori, però ecco Vittorio Continelli, col quale mi sono potuta confrontare sul mito e sulla favola di Amore Psiche, Gioia di Biagio, che invece pure lei si riporta alla tecnica del kintsugi, che è questa tecnica di riparazione giapponese dei vasi, che vengono riparati proprio con l'oro, che poi quindi ne accresce addirittura il valore, no? Sì. Consuelo, ci parli anche un po' più in generale della tua attività, della tua opera? Diciamo che da sempre, si può dire, mi sono concentrata sulla la figura femminile, quindi ho sempre dipinto donne. Ho sempre dipinto donne, posso dire, e qui forse si ricollega a questa sorta di risveglio di psiche, perché ho sempre dipinto delle donne in attesa. E in attesa dell'amato, in attesa che qualcosa comunque avvenisse. Quindi erano spesso donne, delle quali tra l'altro dipingevo solamente parti del corpo, mai il viso, mai la testa. E quindi donne in attesa, mentre invece, ecco, poi dipingendo psiche e raccontando un po' questo percorso che se vogliamo è quasi un risveglio dall'attesa, ma diventa quasi più appunto un'azione, un agire per ottenere ciò che si vuole, perché lei inizia questo percorso cercando amore, ma in realtà poi diventa una ricerca e un trovare se stessa. Elevando se stessa quindi al termine Atea. Quindi sì, volendolo vedere come un percorso unico, direi di essere passata da una donna in attesa a una donna che invece prende in mano la sua vita e agisce superando prove anche difficilissime. Quindi non è più un'attesa e basta dell'amato, ma è una conquista dell'amato e della propria vita. Bene. Allora, in chiusura ci lasci i riferimenti web per seguire la tua attività? Ho la pagina Facebook che è Consuelo Mura Artista e Consuelo Mura. E basta. E basta. E allora ricordiamo l'appuntamento con l'evento performance L'Oro di Psiche a Roma al Macro, venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento a Consuelo Mura. Consuelo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, a presto.